non indifferente. Devo chiudere tra quanto? 2 minuti forse? Devo chiudere tra 2 minuti? Sì, guarda, Valeria Bernardi mi dice di sì, e allora c'è solo tempo per segnalare che cosa? Vi voglio segnalare questa. Vi ricordate la vicenda dei 2 carabinieri brutalmente aggrediti da 4 ragazzi, uno dei quali solo maggiorenne, gli altri minorenni, a un fermo, un posto di blocco in provincia di Grosseto? Si era parlato anche di rave party, eccetera. Uno dei 2 carabinieri è in coma. Ebbene, il quotidiano nazionale dà una notizia interessante. I violenti del rave pagano le famiglie. In 4 assalirono i carabinieri a Grosseto. Che cosa ha fatto la procura? Ha sequestrato alle famiglie dei 4 ragazzi 500.000 euro in vista del processo dei figli. È un sequestro conservativo di beni per un valore appunto di 500.000 di euro. Un punto importante messo a segno dagli avvocati dei 2 carabinieri. E questo perché? Perché se poi ci sarà una condanna, come insomma, è presumibile, visto che il dato di fatto, l'aggressione c'è stata, da parte delle persone che ora sono indagate, ci sarà poi non solo la pena, ma anche il risarcimento della vittima in sede civile, e allora con questo sequestro conservativo, alla fine a pagare, nel caso di una condanna e poi di un indennizzo da pagare, saranno appunto le famiglie. I violenti del rave pagano le famiglie, lo trovate sul Quotidiano Nazionale a pagina 19. Ci fermiamo qui con il GR, vi ricordo il nostro sondaggio, parliamo delle multe dell'Agcom ai telegiornali per le interviste a Silvio Berlusconi. Che ne pensate di questo tema? Ne parleremo alle 8.30, ora il giornale radio. 24 mattino. L'intervista. Allora sono le 8.22 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Voglio salutare, il nostro ospite dell'intervista di oggi è Vilmare Giacomazzi, che saluto. Buongiorno signor Giacomazzi. Buongiorno, buongiorno. Lei è il presidente nazionale del Comitato Spontaneo Produttori Agricoli, il COSPA. Fondato nel 1998. Senta, lei ha fatto una denuncia alla procura dicendo: attenzione, perché so di allevatori che si stanno armando perché arrivano delle nuove multe. Ci sono delle multe in arrivo per le aziende per sforamento delle quote latte, e se arrivano gli esattori la gente qui è esasperata. Ma è davvero così? Sì, è una denuncia forte ma doverosa, perché ho assistito a delle assemblee con degli allevatori che dicevano queste cose. Io naturalmente li ho esortati a proseguire sulla linea delle denunce, sia penali sia ricorso civile eccetera, però l'esasperazione è molto alta, anche perché a ogni sanzione o ogni superprelievo che arriva consegnato da Equitalia corrisponde un ricorso che costa ancora soldi con le aziende che sono snervate dal punto di vista finanziario e anche dal punto di vista che dura a lungo questa questione. Lo so, però Giacomazzi, non è neanche il primo caso. Nel weekend è uscita la notizia di un esattore appunto di Equitalia che si è presentato a portare da un allevatore una parcella, credo da 500.000 euro di multa da pagare. È stato sequestrato, gli hanno rotto l'auto. Cioè, che devono fare questi di Equitalia? Io credo che Equitalia, prima di prendere in carico di consegnare questi falsi superprelievi con calcoli errati, non è possibile che a un certo punto non ci si trovi a una situazione che il superprelievo, la sanzione è 7, 8, 10, 100 volte superiore alla redditività dell'azienda, che Equitalia verifichi la certezza dell'esigibilità del credito, perché altrimenti si mandano fuori cartelle pazze senza accertamento dell'esigibilità del credito. Lei tra l'altro ha un'azienda e ha annunciato lei stessa: mi arriverà una multa di quanto? Io quello che ho sentito, fra virgolette, di 4.500.000 di euro. 4.500.000 di euro. Ma non è neanche sopportabile col fatturato di 10 anni, col fatturato, non con l'utile. Ho capito, ma lei questo perché? Per lo sforamento della produzione di quote latte, no? No. La multa è giustificata così, sarebbe giustificata. Sì, la multa è giustificata così o per sanzioni, ma siccome che la relazione dei carabinieri che è emersa ultima, dal 96 ci sono relazioni di commissioni governative, dei carabinieri col colonnello Messina, l'ultima dei carabinieri, quella istituita da il ministro Zaia, che dice chiaramente che sono stati gonfiati i dati, che sono state calcolate vacche da latte fino a 83 anni per giustificare l'italianizzazione di latte. Vabbè, questa è la contestazione che lei fa alla multa, però capisce che dire, cioè l'allarme che lei ha lanciato, cioè ci sono allevatori esasperati pronti a imbracciare le armi, si stanno armando con fucili. Perché ragionano in questa maniera: la multa e il superbadere non sono dovute. La legge non è stata applicata mentre si calcolano questi superprelievo, perché la legge prescrive chiaramente che prima di emettere questo si deve valutare la compatibilità tra il patrimonio bovino e la produzione del latte. E a un certo punto sono esasperati e fanno un ragionamento molto semplice: se mi rubano l'azienda agisco per legittima difesa. Accidenti. E quindi, ma secondo lei sono esasperazioni di toni così per minacciare, oppure c'è qualcuno che è veramente pronto a imbracciare le armi? No, perché su questo abbiamo assistito ormai a 60 suicidi di allevatori, e lo dice la stessa commissione dei carabinieri, che ci sono allevatori che si sono suicidati o che hanno chiuso tutto a vedersi continuare a arrivare queste cartelle verdi. Ci sono molti che dicono: io il suicidio non lo faccio perché non ho fatto niente di vergognoso, solo prodotto del latte italiano, e l'ho fatturato, perché il superprelievo arriva dalla fatturazione. A questo punto qua devo fare un caso emblematico, che a un certo, o casi emblematici che possono innalzare i toni per avere l'opinione pubblica e le prese di posizione del ministro, che naturalmente lui conosce perfettamente la relazione dei carabinieri e rifaccia i suoi calcoli. Allora intanto staremo a vedere. Io la ringrazio, spero davvero che sia una... Lei ha fatto questa denuncia, ci sono gli allevatori esasperati pronti a imbracciare le armi addirittura quando arriveranno queste cartelle, che voi dite cartelle pazze di Equitalia. Staremo a vedere, sperando veramente di no. Intanto la ringrazio, signor Vilmare Giacomazzi, presidente nazionale del COSPA. Ringrazio lei e grazie, radio ascoltatori, grazie. Ci fermiamo per la pubblicità e il meteo, e poi di cosa parliamo nel nostro sondaggio? Parliamo di le TV, Berlusconi che è andato in TV e la Agcom che ha multato 5 telegiornali per le 5 interviste contemporanee di venerdì scorso. Berlusconi si lamenta, è una vergogna, non mi fanno parlare. Questa sera andrà a Porta a Porta. Quello che vi chiediamo nel sondaggio è: voi siete d'accordo con queste multe? 5 telegiornali multati per le interviste a Berlusconi, oppure è sbagliato perché il Presidente del Consiglio ha diritto a essere intervistato, ha diritto a parlare? Che ne pensate? Votate su radio24.it oppure 800 24 0024. Tra poco 24 mattino. Le 8:34 minuti, eccoci qua. Per il nostro sondaggio di oggi vogliamo parlare di questa multa che l'Agcom, l'autorità garante per le comunicazioni, ha combinato a 5 telegiornali che hanno intervistato il Premier, il Presidente del Consiglio Berlusconi, venerdì scorso, praticamente mandandolo in onda in contemporanea. Siete d'accordo con questa multa? Questo vi chiediamo oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il voto del 15 e 16 maggio ha confermato che il Popolo della Libertà è il primo partito del paese. Ecco, che non esistono. Questo tra l'altro è un nuovo video messaggio, quello di ieri del Presidente del Consiglio Berlusconi, perché di questo poi parliamo, insomma, di par condicio, un qualcosa che per carità c'è e quindi va rispettata, noi qua la rispettiamo in maniera totale, ossequiosa, però è una cosa che veramente mi mette i brividi solo a nominarla, però c'è e quindi è una legge che va rispettata. E parliamo di questo, della legittimità di essere intervistato da parte del Presidente del Consiglio, dalla prima intervista. intervista, del fatto che la GCOM abbia definito più che interviste dei comizi di propaganda elettorale, quindi ha comminato queste multe, del fatto di chi debba pagare queste multe per quel che riguarda soprattutto il servizio pubblico, della legittimità o meno che il Presidente del Consiglio parli. Lui ha detto: mi imbavagliano, non mi fanno parlare. Registro che questa sera andrà anche a porta da Bruno Vespa. Voglio salutare il direttore di Studio Aperto, Giovanni Totti. Buongiorno direttore, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Saluto anche Carlo Tecce, che è un giornalista del Fatto Quotidiano. Buongiorno Carlo, ben arrivato qui. Buongiorno a voi. Tra l'altro voglio ricordare anche coautore di un libro, Io ti fotto. L'Italia è un paese fondato sulla fregatura. Allora, le multe sono quali? L'abbiamo visto oggi, il direttore del TG5, Clemente Mimun, dice è una vergogna paradossale, intimidatoria, è un'intervista al giornale. Chi ho intervistato? Un terrorista di Al-Qaeda? Un mafioso? Un delinquente che invita i ragazzi insegna i ragazzi a come fabbricare Molotov? Ho intervistato il Presidente del Consiglio. Allora, Giovanni Toti, multa credo di 100.000 euro a Studio Aperto, è arrivata? Questa è la cifra. È questa la sua linea, dire, cioè, di cosa stiamo parlando? Era un'intervista al Presidente del Consiglio? La mia linea è che era un'intervista perfettamente legittima, anzi doverosa. Dopo 5 giorni dal voto, perché i risultati sono usciti lunedì, io ho passato 5 giorni leggendo sui giornali chissà cosa pensa Berlusconi, retroscena, note politiche, l'ironia, non parla più, dovremmo andare a chi l'ha visto. In quei giorni io avevo chiesto un'intervista al Presidente del Consiglio, così come a molti altri leader politici, ma immagino che avessero fatto la stessa cosa quasi tutte le testate italiane. Nel giorno in cui il Presidente del Consiglio decide di rispondere a delle domande, le mie erano delle domande, perché sono 3 domande che credo gli avrebbe posto qualunque giornalista, anche il più scalcinato: cosa pensava di Napoli, cosa pensava di Milano e le ricadute sul governo nazionale. Non mi sembrava una cosa particolarmente geniale, ma era quello che la gente voleva sapere. Bene, avrei dovuto rinunciare a fare quell'intervista, non lo so su quale presupposto, sapendo che altri telegiornali l'avrebbero fatta. E invece l'accusa del, perché le motivazioni della GCOM sono queste, più che il fatto dell'intervista in sé, credo siano i contenuti, cioè i contenuti, dice, è passato come una sorta di non un'intervista ma appunto una propaganda elettorale, no? E quindi... una propaganda elettorale, ha risposto a delle domande, che poi le domande fossero più o meno simili a quelle di tutti i giornalisti che erano lì, io credo fosse semplicemente una questione di buon senso. Tutti i giornalisti sono arrivati lì per chiedergli cosa pensava del risultato deludente della Moratti, cosa pensava della sfida di Napoli, se il voto amministrativo avesse delle ricadute sul governo nazionale. Io credo che se prendiamo 100 giornalisti, 100 giornalisti avrebbero formulato le stesse domande, perché era quello che il paese voleva sapere da Berlusconi. Diciamo, avendo a disposizione 5-6 minuti, perché poi non è che... Ma anche meno, voglio dire, un'intervista da telegiornale, però questi sono i fatti. Infatti, fosse stata un'intervista, probabilmente Vespa stasera si dilungherà di più, ma io quello avevo a disposizione. Ma poi cosa vuol dire? Allora aboliamo anche le conferenze stampa. Nel momento in cui un leader politico convoca i giornalisti, fa una conferenza stampa, risponde alle domande di uno, la domanda è particolarmente azzeccata e tutti i telegiornali della sera mandano in onda quella risposta, perché è quella che interessa al paese, qualcuno di noi deve rinunciare a darla, perché se no la trasmettiamo tutti. Allora, è un'assurdità giornalistica. Va bene, questa è la sua posizione. Vorrei sentire Carlo Tecce, perché ieri il Fatto Quotidiano ha aperto su questo tema in maniera anche molto dura, ponendo un problema che magari porremo un po' più avanti, cioè chi paga questa multa. Voi dite dovremmo farla pagare, ovviamente nel caso del servizio pubblico, a Minzolini per quel che riguarda il TG1 e al direttore del TG2, immagino per par condicio anche qui, no? Quella arrivata al TG2. Perché questa durezza e questa critica sul fatto che il Presidente del Consiglio possa essere intervistato? Ma innanzitutto chiariamo che lui quando parlava non era Presidente del Consiglio, perché non dava alcun messaggio al paese riguardo il governo, ma era candidato a Milano per le comunali con Letizia Moratti ed era leader di partito, quindi questo è il primo equivoco di fondo. Poi la seconda cosa è che non è stata un'intervista, ma è stato un videomessaggio, è stata una comunicazione. Dice il direttore Toti, tutti quanti aspettavano il commento di Berlusconi dopo 5 giorni e quindi Toti, da buon giornalista, ha aspettato 5 giorni, per 5 giorni ha cercato un'intervista, ha cercato di convincere il Presidente. Ed ecco che il Presidente del Consiglio capo del partito, candidato a Milano, ha dato l'intervista a Toti e poi incidentalmente l'ha data a TG5, a TG4, a TG2, a TG1 e tutte le interviste erano uguali, identiche, nella stessa posizione, col simbolo di partito, con le stesse cose e tutte erano domande, sì, ma senza punto interrogativo. Sarà questa la differenza, che l'ha rilevato stessa Agcom, che non dimentichiamoci, l'anno scorso un commissario della Agcom si è dimesso per un'inchiesta perché beccato al telefono a parlare con il Presidente del Consiglio per chiudere un programma sulla Rai. Sì, la vicenda anno zero. Quindi non è un ente sovietico l'Agcom, è un organismo che fa rispettare delle regole. Poi se si è intolleranti alle regole, anche quelle dell'Agcom e della par condicio sembrano qualcosa di sovietico. Questa è stata un'accusa, Totti, che ho letto da parte dei direttori, anche non so se anche sua, di dire è stata una mossa politica da parte dell'Agcom. È davvero così, la pensate? Ma io non so se è stata una mossa politica, io so che è stata una mossa assurda, perché non riesco veramente a capire su quali presupposti l'Agcom può decidere quale dei telegiornali italiani avrebbe dovuto accettare l'intervista del Premier Berlusconi e quale rifiutarla sulla base di un affollamento, cioè l'autogestione, se la fa Minzolini allora Toti prende il buco e non fa sentire ai suoi telespettatori cosa vuol dire il Presidente del Consiglio, o lo prende De Scalzi o lo prende Mimmun, tiriamo a sorte. E poi vorrei sapere, perdonatemi, qual è la differenza tra il commento al voto di Berlusconi fatto, ripeto, rispondendo a delle domande, nel mio caso, però mi sembra che le domande un giornalista fosse risieduto nel caso di tutti i telegiornali italiani, e le dichiarazioni trasmesse il lunedì sera da tutti i telegiornali a reti unificate, identiche, di Bersani che commentava il voto, seduto nella sede del suo partito, non ricordo con un simbolo dietro o meno, ma molto spesso ce l'ha, o il videomessaggio mandato in onda da me stesso e da tutti i telegiornali d'Italia il giorno dopo Berlusconi, in cui diceva che l'economia non va, o legittime considerazioni. Non so, per te c'è la differenza qual è? Cioè è proprio questo, il fatto che c'erano il simbolo di partito, che sembrava la stessa posizione, che sembravano, che parevano non domande ficcanti, non domande, questa è la differenza? Cioè, no, questo, cioè fosse stata un'intervista nella quale si facevano delle domande più stringenti, più ficcanti, andava bene così? Per voi, poi per l'Agcom ha stabilito, c'è un regolamento. No, noi valutiamo in base alle regole che sono quelle dell'Agcom, che sono figlie di una legge sulla par condicio, che è un problema non risolto del conflitto di interessi, e che, ricordiamo, la legge della par condicio è della sinistra, quindi per carità, il centro-sinistra allora di D'Alema, quindi ognuno ha le sue responsabilità. Ma è il fatto che quell'intervista di Berlusconi a 5 telegiornali più alcune radio contemporaneamente dava proprio l'idea, nella comunicazione elettorale, quindi politica, che non è il giornalista che decide, che sceglie come, quando fare un'intervista. Ma Berlusconi che convoca, anche con il consenso del Presidente del Consiglio, ma è il Presidente del Consiglio che sa dello suo strapotere mediatico e quando ne ha bisogno, magari sbagliando anche il giorno, sbagliando anche l'ora, decide di utilizzarlo facendo seggio di qualsiasi regola. Questa dunque è l'accusa. Sentiamo qualche ascoltatore. 800 24 00 24. C'è da dire, no, non l'ho ancora detto, ma comunque il 76% dei nostri ascoltatori nel sondaggio, 75 per la verità, dice siamo d'accordo, sono giuste queste multe. Sentiamo Anna Rita da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Dica. E volevo dire che non è stato, cioè non siamo così stupidi, non è stato, è stato un messaggio unificato alle nazioni, alla nazione, molto più di quello che può fare il Presidente della Repubblica. Cioè non scambiamole per interviste, questo vuol dire. Assolutamente, come stava dicendo il giornalista del Fatto, cioè ma è una cosa assurda, ma ancora pensano che noi siamo così beoti. Beh, adesso insomma non la metta su questo piano, Anna Rita, la sua opinione. No? Io mi sento trattata da beota, da deficiente, mi creda. Cioè, c'è la metà, come dice Bocca, la metà degli italiani che fanno danni e l'altra metà che cerca di porre rimedio. È questo il problema. Va bene, grazie Anna Rita. Andiamo alle informazioni sul traffico, poi sentiamo anche Nicola da Ercolano, Gianfranco da Termoli, qualche ascoltatore. Siamo ancora con i nostri ospiti, Giovanni Toti, il direttore di studio aperto TG di Italia 1, e Carlo Tecce del Fatto Quotidiano. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? C'è chi, come il nostro ascoltatore, nei messaggi dice anche sbagliata la contemporaneità, cioè questo discorso che è comparso a reti unificate. Vediamo come la pensa chi ieri a Ballarò. Da buon genovese io mi sono chiesto, ma questa multa chi la paga? La paga forse il direttore del TG1? No. La paga forse il direttore del TG2? No. La paghiamo noi. È come se io venissi multato da un vigile e la multa la pagasse l'ACI. Dunque, ieri Bersani, che non ha fatto metafore, ha detto che la multa dovrebbe pagare al direttore dei TG. E Berlusconi ha risposto: ho detto che io non la pago. Vabbè, era Maurizio e Maurizio Crozza. Nicola da Ercolano, buongiorno. Allora, buongiorno, magari parliamo di questa cosa della multa. Senta, dica. Io volevo dire due o tre cose, se è possibile, in sì, breve. Sì. Io volevo chiedere, l'Agcom come mai non arriva mai sul TG3, su Anno Zero, sulla Dandiche, tutti i 365 giorni parla solo male sotto la scusa che è satira, solo male di Berlusconi? Guardi, le do una, questa le do una, è la mia domanda. Eh no, le do una, non ti, le do una risposta. Su esposto di Alessio Butti, che è un senatore del Popolo della Libertà, anche spesso nostro ospite, è stata fatta una richiesta per un'intervista al del TG3 ad Antonio Di Pietro del 20 maggio. Quindi è stato fatto un esposto, credo, all'AGCOM da parte di Alessio Butti. Le va bene così? Cioè, nel senso che hanno chiesto di indagare anche sul TG3 e poi vedremo. Ma no, forse allora non sono stato chiaro, chiedo scusa. Sì. La Gicon è arrivata su Berlusconi, se è giusto o sbagliato non sta a me giudicare. Però voglio dire, questi abusi dall'altra parte non interviene mai. Questa è la mia domanda. Va bene, non so, le risponde, le risponde anche Berlusconi, pare che abbia detto ma come, è una cosa da Soviet, e mentre Anno Zero, Ballarò, la Dandini, insomma, mi ha fatto una serie di in questi retroscena avrebbe commentato così: di questi che parlano male di me nessuno fa niente. Toti, è una posizione giusta? Cioè anche bisognerebbe sanzionare anche Ballarò, Anno Zero? Ma no, ma assolutamente no, io sono perché nessuno venga sanzionato, ci mancherebbe altro. A par condicio della sanzione mi sembra francamente folle. E io dico una cosa, che la decisione della GCOM è un'escalation che trovo francamente che è inquietante un po' per tutti i giornalisti. Cioè, l'AGCOM giudica nel merito la qualità delle mie domande a Berlusconi e decide se erano giuste, ficcanti, particolarmente incalzanti o meno. E poi decide la scaletta di un telegiornale, se avrei dovuto mettere in onda o meno Silvio Berlusconi o qualunque altro politico da domani, perché spero che poi mantenga una coerenza di decisione. Io da quando faccio il praticante, da alcuni anni, che vedo giornalisti che vengono convocati, penso dai tempi di Giolitti, quando un politico ha qualcosa da dire convoca i giornalisti, gli parla, gli dice alcune cose, risponde alle loro domande, i giornalisti tornano in redazione nella loro libertà, così si spera, decidono cosa è importante e cosa non è importante e pubblicano quello che un politico gli ha detto. È andato così, è una prassi che vale in tutto il mondo. Pensiamo se Obama avesse convocato le quattro principali testate americane per dire qualche cosa alla nazione e l'autorità garante per le comunicazioni americane avesse sanzionato la CBS perché ha trasmesso un'intervista di Obama, poniamo caso in costanza di elezioni di middle term. Sì. Io una notizia così non l'ho mai letta su nessun giornale del mondo, non lo so, magari sbaglio. Sentiamo Carlo Tecce, se vuole replicare a questo, e anche la questione della multa, chi paga? Perché ieri il Fatto Quotidiano ha detto adesso paghi Minzolini. Mi sembra, questa francamente mi sembra un po' una cosa, cioè perché voglio dire, nel senso, sembra quasi un accanimento, no? Voi ce l'avete col direttore del TG1 e questo non è un mistero. Però insomma c'è una multa al TG1, paghi col portafoglio, tiri fuori dalle sue tasche 250.000 euro. No, è lui che ce l'ha con se stesso e con chi fa il suo mestiere, giornalista. Vabbè. Lui, no, ma noi abbiamo detto questo perché per Berlusconi è molto semplice pagare la multa per Mediaset, e alla fine io sono contro le multe dell'Agico, no? Quindi ti do questa notizia perché sono troppo poche, non servono a nulla. Ah, cioè una multa, cioè dovrebbe essere... Una multa, una multa più di 100.000 euro per Toti vale uno spot pubblicitario a cui Berlusconi può fare tranquillamente. Quanto valgono le regole? Se una regola vale 100.000 euro, si dà la possibilità di avere un anche potenzialmente, no? Non si parla del precedente di questa multa. Potenzialmente con 100.000 euro si riesce ad andare oltre qualsiasi tipo di regola, non mi sembra tantissimo. Per quanto riguarda Minzolini, e soprattutto per un'azienda che fattura la RAI oltre 3 miliardi di euro, lui ha provocato questa multa, insomma lui è il responsabile, è divertente, come diceva Crozza appunto prima, che qualcuno provoca la multa, un altro dovrebbe pagarla e poi la pagano i cittadini. Cioè, dovrebbe pagare veramente Minzolini per voi, non so, con un pignoramento dello stipendio? No, ma intanto si risolve un altro problema di Minzolini, che è quello della carta di credito per cui è indagato. Vabbè, ma questa è un'altra cosa. È un'altra cosa. Cioè, dovrebbe pagarla tutto veramente Minzolini. Conto, tutto fatto tale, diceva no? Tutto. Vabbè, ma dovrebbe, rispondi a questo, dovrebbe pagare Minzolini secondo voi, proprio di tasca sua? Cioè, siccome è arrivata la multa al TG1, il direttore insolito deve pagare? Cioè, è pericoloso come messaggio, al di là di quello che pensate di Minzolini, voglio dire, che un giornalista paghi per una multa, per una violazione della par condicio. No, ma è certo che qualcosa di impossibile era una provocazione, questo è chiaro, è come se io perdessi una querela dovrei pagare di tasca mia, no? Però è il caso che comunque magari venga che la RAI intervenga direttamente su Minzolini, che prenda delle decisioni, insomma, in seguito alla multa, in seguito alla multa, soltanto che paghi senza dirgli nulla o che sia sempre. Gli farà immagino una reprimenda, non so, il presidente della RAI Galimberti non sarà contento di sborsare 250.000, a parte che faranno forse ricorso, non lo so. Sentiamo Gianfranco da Termoli, ce la facciamo con lui anche a chiudere. Gianfranco, buongiorno. Buongiorno, ciao. Allora, molto sintetico, le leggi ci sono, vanno rispettate, quindi la par condicio va rispettata da tutti. Anche se poi, come diceva la radioascoltatrice prima, gli italiani hanno intelligenza tale da poter capire e valutare la qualità dei messaggi. Dopodiché anch'io sono d'accordo che chi sbaglia paga, nel senso che i direttori delle testate credo abbiano la capacità tale da capire se quello che fanno va. Cioè, quindi devono pagare, no? Dovrebbe pagare Minzolini. Ma così come pagano i direttori delle aziende che vengono esonerati, spostati, trasferiti, dimessi più o meno volontariamente, anche loro sono anche loro. I direttori sono responsabili, sanno quello che fanno. Io non posso credere che non ma è chiarissimo questo. Toti ha capito, ce l'ha 100.000 euro da. Potete darmi qualcosa? No, una colletta, voglio fare una colletta per Toti, vabbè, 100.000 euro da pagare. Ma il cellulare fa un po' le bizzecche, è caduto pure proprio in conclusione. Vabbè, dai, ringrazio Giovanni Toti, il direttore di Studio Aperto, il TG di Italia 1, e Carlo Tecce, giornalista del Fatto Quotidiano, per essere stati con noi. Continuate sulla nostra pagina di Facebook, 24 mattino, ci trovate. Adesso quel pazzo di Alessandro Longoni mi ha messo anche a twittare. Si dice così, twitterare. Come si dice? Twitterare o twittare? La prima, la seconda, twittare, bene. E allora, siamo anche su Twitter, ebbene sì, che dire, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, Valeria Bernardi in regia, grazie a tutti, vi ritrovo domani, se l'influenza ci abbandona, e speriamo, mi abbandona, e intanto, che dire, do la linea a Oscar Giannino, come sempre, noi ci troviamo domattina alle 7:20.